Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24 e come avete visto anche nei giorni scorsi, leggiamo i vostri commenti anche là, quando ovviamente lo riteniamo opportuno, non è che leggiamo tutti i messaggi. Di che cosa parleremo oggi? Fatemi iniziare dai mercati, perché come sempre ci sarà l'approfondimento con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Questa mattina il Dow Jones ha toccato quota, o meglio questa mattina, la mattina americana, insomma in apertura dei mercati, il Dow Jones ha toccato quota 22.000 punti, una soglia mai toccata. In questo momento è in calo, o meglio è sotto quella soglia, 21.976, tutto questo sulla scorta dei dati diffusi da Apple che sono migliori delle attese. In questo momento il Dow Jones guadagna lo 0,06%, sono lievemente negative le borse europee, meno 0,32% per il FTSE All Share, meno 0,35% per il FTSE MIB, e negative sono anche Parigi, Francoforte, e per quanto riguarda Londra siamo in calo dello 0,32%. E questo sarà come sempre l'approfondimento di mercato oggi con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, in una giornata che vede positiva Generali che guadagna il 2,5%, BPM l'1,81%, Mediobanca l'1,5%, Mediaset l'1,34%, e giù Ferrari del 4% dopo il forte rialzo di ieri, Buzzi Unicem che cede il 3%, Ferragamo il 2,9%, Fiat Chrysler il 2,15%. Appunto, di mercati parleremo più avanti. Gli altri temi di approfondimento, torneremo evidentemente sulla vicenda Fincantieri, che si arricchisce di una serie di capitoli. Innanzitutto c'è da fare un po' di analisi su quello che è successo ieri. Tra governo italiano e governo francese, sostanzialmente potremmo dire che è successo molto poco, nel senso che entrambi i governi hanno ottenuto le posizioni sulla possibilità di acquisizione da parte dei Fincantieri, dei cantieri Saint-Nazaire, con il governo italiano che ha tenuto una posizione piuttosto dura, ha detto c'era un accordo per l'acquisizione del 51% e questo 51% noi lo vogliamo, il governo francese che per il momento nicchia. C'è da fare un po' di analisi perché c'è l'attesa a questo punto per il vertice di fine settembre, un vertice nel quale si inizierà a ragionare un po' su tutto questo, e con sullo sfondo, ed è probabilmente questa la vera attesa, con sullo sfondo le elezioni per il Senato francese, cioè probabilmente quella dei francesi al momento è anche una mossa politica, vedremo se la manterranno anche dopo le elezioni. Si arricchisce anche di altri elementi perché c'è un'altra grande partita, lo abbiamo accennato anche nelle scorse puntate, che riguarda l'Italia e la Francia in queste ore, ed è quella che riguarda Telecom Italia. Oggi ci sono delle dichiarazioni da parte del governo, da parte del ministro Calenda, e più avanti le ascolteremo, sulla grande attenzione che sta mettendo il governo sul tema del cosiddetto Golden Power, ossia la possibilità da parte dell'esecutivo di intervenire in determinate aziende quando queste aziende siano considerate strategiche. C'è quindi la possibilità di esercitare un intervento, ci sarebbe almeno la possibilità di esercitare un intervento, visto che appunto i francesi detengono sostanzialmente la maggior parte delle azioni, non la maggioranza assoluta, ma ovviamente la maggioranza relativa di Telecom Italia. Che cosa succede qua? A norma europea l'esercizio del Golden Power non potrebbe avvenire in caso di aziende di telecomunicazioni, e però il margine resta aperto ed è un altro elemento che si inserisce nella trattativa su Fincantieri. Ci occuperemo di questo, ci occuperemo di Roma e qua colgo l'occasione ancora per fare una premessa, perché qualche ascoltatore, come al solito, molto fedele del Movimento 5 Stelle, molto appassionato alle vicende di Virginia Raggi, ci ha scritto nei giorni scorsi: ma come mai vi occupate tutti i giorni di Roma? Ce l'avete con Virginia Raggi? No, non ce l'abbiamo con Virginia Raggi. Roma è la principale città del paese, conta 4 milioni di abitanti, è il nostro biglietto, uno dei nostri biglietti, o dovrebbe essere uno dei nostri biglietti da visita nel mondo. È una città in una condizione finanziaria devastante, e questo è oggettivo, ed è una condizione finanziaria devastante che non nasce con Virginia Raggi, ma risale alle amministrazioni precedenti. Detto ciò, questa condizione finanziaria devastante, che tiene conto di tante questioni, per esempio l'improduttività di una parte dei dipendenti del Comune di Roma, ma anche le vicende delle municipalizzate, come per esempio l'ATAC o come per esempio l'AMA, l'azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, fa sì che la situazione finanziaria di Roma sia particolarmente complessa. Giusto per darvi un'idea, Roma dovrà chiudere un bilancio nel quale vanterà crediti nei confronti delle sue municipalizzate per 1,6 miliardi di euro. Queste sono le dimensioni, 1,6 miliardi di euro, e vanterà, o meglio, e le municipalizzate vanteranno crediti nei confronti del Comune di Roma per 1,7 miliardi di euro. Questo per darvi la dimensione del problema. C'è un bilancio da chiudere, c'è una tensione politica evidente in Campidoglio, e come dire, nascondersela, lo dico a chi è dentro il Movimento 5 Stelle, nascondersela farebbe anche male, perché le dichiarazioni dell'assessore al bilancio, che poi è quello che deve firmarlo questo bilancio, sono state anche piuttosto pesanti. È arrivato un nuovo assessore al patrimonio e c'è, ripeto, un bilancio da chiudere. Lo affronteremo come facciamo sempre, dal punto di vista economico e dal punto di vista dei conti della capitale. C'è una vicenda calcistica che ci interessa molto per le sue dimensioni contabili e per le sue dimensioni geopolitiche, ed è la vicenda della cessione di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain. E perché c'è una questione geopolitica, al di là di un valore del trasferimento che ammonta a circa 600 milioni di euro, e quindi già questo colpisce e impressiona, perché il Paris Saint-Germain è di proprietà sostanzialmente, tramite ovviamente un fondo che è collegato al fondo sovrano, è proprietà del Qatar. Il Qatar, come sapete, come vi abbiamo raccontato, vive da qualche tempo una sorta di isolamento, isolato e sanzionato da altri paesi arabo-sunniti che lo accusano di collegamenti con il terrorismo, e anche qua ci sarebbe da vedere che cosa c'è dietro. Qatar che sta cercando di uscire dall'isolamento muovendosi sullo scenario occidentale, che invece non lo sanziona. Non a caso, e per tornare in qualche modo a Fincantieri, è di oggi l'annuncio del ministro degli esteri Angelino Alfano che il Qatar ha firmato un accordo per commissionare a Fincantieri navi militari per 5 miliardi di euro. Quindi un Qatar che cerca di rompere l'isolamento dai paesi arabo-sunniti, muovendosi su uno scenario che è anche lo scenario calcistico. Non a caso è proprio il Qatar che dovrebbe ospitare, come sapete, i contestatissimi mondiali di calcio. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo in diretta, e anche là potete commentare le notizie in breve di oggi. Le materie prime innanzitutto: l'oro che scende dello 0,2% a $1,269 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo il Brent in calo dello 0,62% a $51,4 al barile, il petrolio del mare del nord. Per quanto riguarda il WTI, il calo è dello 0,81%, un po' più pesante, siamo a $48,7 al barile. Bye. Il presidente americano Donald Trump ha firmato le sanzioni alla Russia, il pacchetto di sanzioni alla Russia approvato dal Congresso, che comprende anche misure verso l'Iran e la Corea del Nord. Notizia di poco fa, riferita dalla CNN. Ieri vi avevamo dato conto dell'attesa e oggi è arrivata la firma. Le notizie dal Venezuela ci raccontano che Julio Borges, il presidente del Parlamento venezuelano, ha annunciato che un gruppo di deputati andrà oggi alla sede della Procura Generale per esigere un'inchiesta penale contro i responsabili del Consiglio Nazionale Elettorale. E come sapete c'è una pesante accusa di brogli. Si parla di risultati falsi riguardo all'affluenza. Notizie dal Dieselgate, dove oltre 5 milioni di auto diesel tedesche saranno interessate da un aggiornamento del software. Questa è la prima tra le misure decise dal vertice sul diesel che è in corso a Berlino per ridurre le emissioni di gas nocivi, lo ha riferito il Frankfurter Allgemeine Zeitung. Citando l'Unione dell'Industria Automobilistica Tedesca, si tratta di veicoli Euro 5 e in parte di veicoli Euro 6. L'obiettivo è ridurre le emissioni dei veicoli di ossido di azoto tra il 25 e il 30%. Al momento non sono previsti costi a carico dei proprietari di auto. Notizia. Ve la stavamo dando poco fa, il Qatar ha annunciato un accordo per l'acquisto di 7 navi da guerra dall'Italia, il totale è 5 miliardi di euro. Annuncio arrivato oggi dal ministro degli esteri del Qatar insieme al ministro degli esteri Angelino Alfano. Saranno 7 le navi da guerra fornite dall'Italia, appunto, per un totale di 5 miliardi di euro. E saranno realizzate da Fincantieri, il che ci porta all'altra vicenda, un affare che non si sblocca evidentemente, e come vi abbiamo raccontato in apertura, il ministro Calenda, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, lo avete sentito anche poco fa in GR24, ha detto che il governo manterrà durante questo periodo di negoziato la linea di fermezza che ha sin qui seguito, tenendo però sempre aperto un canale di dialogo costruttivo con il governo francese. Riteniamo che esistano tutte le condizioni per trovare un accordo e andare avanti sul progetto di partnership tra Fincantieri e Naval Group. Nel frattempo, la Presidenza del Consiglio ha ricevuto una nota datata 31 luglio nella quale lo stesso Ministro dello Sviluppo Economico ha sollecitato un'istruttoria da parte del gruppo di coordinamento interno alla Presidenza del Consiglio per valutare l'esercizio di poteri speciali sugli assetti societari di Tim Spa. Lo si legge sul sito del governo ed è quello che dicevamo prima. Applicheremo con intransigenza, dice Calenda, le norme sulla Golden Share e proporremo una norma antiscorrerie per le aziende quotate. Intanto, dopo più o meno 900 giorni, arriva all'approvazione definitiva la legge sulla concorrenza. 900 giorni. Vi ricordo che è previsto dalle norme che la legge sulla concorrenza debba essere annuale, cioè ogni anno il governo e il Parlamento devono approvare una legge sulla concorrenza. Come al solito, parte in un modo da Palazzo Chigi ed esce dalle Camere in un altro, perché poi l'annacquamento è inevitabile. Il ministro Calenda, che avevamo sentito qualche tempo fa proprio in merito a questa vicenda, qua ospite di Oscar Giannino e Alessandro Milan, diciamo ha sempre un tono pacato Calenda, ma l'avevamo sentito piuttosto imbestialito da come stavano andando le cose su questa storia del DDL concorrenza, dice un segnale di serietà per il paese. Cosa succede? Viene fissata al 1 luglio 2019 la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas. Stop al monopolio di Poste sull'invio di multe e notifiche, è previsto per settembre di quest'anno, quindi tra poco. Ci saranno sconti per chi installa la cosiddetta scatola nera, anche se così non si chiama, abbiate pazienza, lo facciamo per capirci, la scatola nera sulle auto e per i virtuosi che non causano incidenti da 4 anni, anche se vivono nelle province a più alto tasso di sinistri, parliamo di sconti per le assicurazioni auto. E per risarcire i danni non patrimoniali da sinistri stradali si userà la tabella del Tribunale di Milano per evitare le difformità di interpretazioni. Non ci sarà nessuna modifica alle società per il tema di società di ingegneri e avvocati, le prime restano fuori dal controllo dell'ordine, le seconde continuano a dover avere fra i soci per almeno 2/3 del capitale sociale avvocati iscritti all'albo. Per costituire SRL semplificate servirà comunque l'intervento del notaio, non è passata la possibilità di farlo solo mediante scrittura privata. Le società di capitale potranno controllare le farmacie, ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. E i farmaci di fascia C continuano ad essere venduti solo in farmacia. Viva la concorrenza! C'è un ok alla norma pro albergatori per quanto riguarda Booking, cioè potranno praticare prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli offerti anche online. E poi la norma antiscorrerie, della quale parlava Calenda poco fa, che c'era inizialmente ma è sparita, è pronta, deve trovare il veicolo giusto, aveva detto in maggio scorso proprio Calenda. Infine, la siccità, visto che in questo momento siamo in uno studio radiofonico anche piuttosto freddo, devo dire la verità, ma sappiamo che fuori è una specie di forno, sono 11 al momento le regioni che si apprestano a chiedere lo stato di calamità, ha fatto sapere il ministro Martina, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e provincia autonoma di Trento, siamo pronti, dice Martina, a rispondere con tempestività. Veniamo al primo tema di oggi, Roma. Tanto lo so che tanto comunque ci sarà un gruppo di persone che pensa che comunque ce l'abbiamo con la Raggi, mentre invece non ce l'abbiamo con la Raggi, stiamo parlando della capitale d'Italia, ogni giorno a parlare di Roma quando per anni non vi siete accorti di Mafia Capitale, che me ne dovevo accorgere io? Ho i poteri inquirenti che sto là e controllo le intercettazioni tra Carminati e i consiglieri comunali di Roma, a prescindere dal fatto che direi che dopo la sentenza di una decina di giorni fa, forse anche usare l'espressione mafia capitale non è correttissimo. Perché l'inchiesta si chiama così, ma il vincolo sul vincolo associativo mafioso inizia ad esserci più di qualche dubbio. Va bene, veniamo ai conti di Roma. I conti di Roma, ripeto, ne parliamo perché è la capitale d'Italia. Ho detto prima 4 milioni di abitanti, qualcuno mi corregge, sono 2 milioni e 8, sì. Sono 1,3 milioni anche quelli di Milano, però dobbiamo considerare la grande Milano, così come dobbiamo considerare la grande Roma e tutto quello che ci ruota intorno, perché qualsiasi decisione che ha impatto su una città così grande ha impatto anche sul cosiddetto Interland. Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, quindi facciamo le cose da Sole 24 Ore, così non ci accusano raggi contro raggi, eccetera, eccetera, e facciamo un punto sui conti della capitale. Vai Gianni. Sì, i conti della capitale hanno il problema strutturale, che non nasce quest'anno, ma naturalmente di anno in anno peggiora, dei mancati pagamenti, cioè tutti i bilanci del sistema pubblico di Roma, quindi il comune, ma anche le società partecipate, poggiano su una serie di entrate, ma anche di uscite, che sono scritte sulla carta, ma poi non si trasformano in effettivi flussi di denaro. Un paio di numeri: nel bilancio 2016, il consuntivo, c'è scritto che gli incassi da imposte e da sanzioni, multe e così via, sono stati 1,3 miliardi meno del previsto. In particolare, le voci diciamo più che zoppicano di più sono appunto le tariffe. La Tari si aspettavano 800 milioni, l'incasso effettivo è stato 230, in pratica meno di un euro su tre. Le multe 381 milioni, l'incasso effettivo 95, un euro su quattro. Questo naturalmente fa sì che non avendo entrate vere, al di là di quello che c'è scritto sui bilanci, tu non possa nemmeno effettuare i pagamenti, che anche questi sono previsti dai bilanci, ma se poi non hai i soldi i bilanci possono dire quello che vogliono. Questo determina una rete infinita di debiti e crediti fra il comune e le sue società. In pratica il Campidoglio deve 1,7 miliardi alle sue controllate, ma ha un credito quasi equivalente da 1,6. Le due somme totali sono quasi uguali, ma la geografia di debitori e creditori è diversa. Il risultato è che a catena le società non hanno le risorse necessarie alla gestione di bilanci e pagamenti. Per esempio l'ATAC paga i fornitori con circa 256 giorni di ritardo medio rispetto alla scadenza della fattura. E quindi, come dire, questa diventa una catena infinita di situazioni sempre più precarie, sempre più periclitanti, che adesso stanno venendo al pettine. Per esempio l'ATER, che è l'agenzia regionale delle case popolari, dell'edilizia residenziale pubblica, sta pagando con fatica un debito fiscale perché non pagava lo Stato, quindi non pagava l'IMU sui propri alloggi, sostanzialmente ha rottamato le cartelle come hanno fatto molti contribuenti più piccoli, ma le rate sono difficili da pagare. Allora si è accorta di avere un credito dal comune di circa 50 milioni di euro che il comune non riesce a onorare. Insomma, è un sistema tutto bloccato che andrà messo in luce a breve, perché entro il 30 settembre Roma, come tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti, deve fare il bilancio consolidato, cioè il bilancio che tenga conto dei risultati del comune e di quello delle società. Per farlo bisogna mettere luce su questa rete, su questa ragnatela infinita di pagamenti bloccati, perché se non lo si fa entro il 30 settembre arriva il commissario, come quando non si approvano i bilanci normali, diciamo così. Ok, quindi l'opera di Andrea Mazzillo, l'assessore competente, ammesso che resti lui a questo punto, perché mi sembra che le tensioni politiche all'interno della giunta siano piuttosto forti, è un'opera direi decisamente complicata, Gianni. È un'opera titanica, tanto più che appunto un problema di questo tipo, così diamo un ulteriore balzamo alle polemiche politiche, non si crea né in tre mesi né in sei. È un sistema bloccato da anni, ma naturalmente l'incaglio di anno in anno cresce, perché nel frattempo la vita va avanti, i pullman consumano benzina, gomme, pezzi di ricambio quando ci sono, devono pagare i fornitori e non ce la fanno, ma naturalmente il dissesto di una qualsiasi di questi anelli della catena farebbe venir giù l'intera catena, perché naturalmente c'è un effetto domino. In tutto questo c'è la debolezza politica di Mazzillo, che per ora rimane assessore al bilancio, ma diciamo le sue quotazioni non sono altissime in questo momento. C'è da dire che Roma è abbastanza abituata a cambiare assessori al bilancio, ne ha già cambiati tre, ma questo non aiuta, dico nell'ultimo anno, ma questo non aiuta naturalmente una gestione ordinata dei conti. Ovviamente. Gianni, ti chiedo solo un'ultima cosa, prima di chiudere, così poi risolviamo questa questione. Io mi ricordo di aver parlato con te sia in Focus Economia sia in Effetto Giorno dei problemi di bilancio della Giunta Marino. Tu te lo ricordi, vero? Beh, diciamo che Roma ci impegna da molti anni. No, perché così chiaro. Da Alemanno a Marino, ecco, al esatto. Commissario Tronca, alla Raci, diciamo che l'impegno nostro su Roma è abbastanza costante e anche il tono, diciamo così, degli argomenti che ci tocca affrontare è più o meno analogo. Grazie Gianni, grazie Trovati del Sole 24 Ore, trovate tutte le sue cronache su questo e su molti altri argomenti. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, andiamo a parlare di mercati ovviamente come sempre a quest'ora e poi andremo a Fincantieri, alla vicenda Fincantieri. Focus Economia. Pour me a taste of something good. L'idea e la battuta dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice che ci scrive è carina, ma io penso che sia impraticabile, soprattutto non basterebbe, ossia suddividere l'importo del debito romano tra tutti gli assessori, consiglieri e dipendenti che si sono succeduti. Guardi, ho l'impressione non basti, vista la dimensione del debito di Roma. Come abbiamo già detto con Gianni Trovati, ne abbiamo parlato durante la Giunta Marino, durante la Giunta Alemanno, quindi sinceramente non mi sento un ipocrita e no, non vado a Capalbio. Qualcuno dice torna a Capalbio, no, non vado a Capalbio, mi spiace. Anche qualche messaggio di solidarietà, non è che ce ne sia particolarmente bisogno, perché è chiaro che no, sono... c'è qualche sms o whatsapp un po' strumentale, però insomma fa comunque piacere. E ultima cosa, non abbiamo detto che non c'è la mafia a Roma, cioè la mafia c'è dappertutto, c'è anche a Milano, c'è a Torino, c'è ovviamente nei suoi luoghi di elezione. Abbiamo detto semplicemente che al momento la verità processuale non ci consente di dire che l'organizzazione che vedeva dentro Carminati, Buzzi, e che era un'organizzazione chiaramente corruttiva, che nella quale sono state anche effettuate delle minacce, che ha ottenuto appalti probabilmente dove non doveva ottenerli, non è un'organizzazione di tipo mafioso, che è una cosa diversa dal dire non c'è la mafia a Roma. Basta. La borsa. Con il Dow Jones che proprio in questi minuti è ritornato sopra i 22.000 punti dopo aver toccato questa soglia più o meno in apertura, anche sulla scorta dei conti di Apple, più 0,18%, appunto 22.003 punti in questo momento esatto. Lo Standard & Poor's 500 a 2.470 eccede lo 0,23%. Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, eccoci, buonasera. Buonasera a tutti. Iniziamo proprio da qua, vai. Sì, scusami, no, è partito il collegamento in ritardo, che parlavi di Wall Street. Sì, esatto. Parlavo di Wall Street, okay. Partire proprio da qua, dai 22.000 punti appena ritoccati dal Dow Jones, che insomma li aveva toccati, poi era sceso sotto e adesso ci è ritornato. Qua conta molto Apple, no? Sì, e in generale tutto. I dati arrivati alle aziende americane in questi giorni. Sì, esatto, appunto Wall Street già ieri aveva sfiorato questa soglia, mancavano 38 punti e oggi tutti si aspettavano in avvio che riuscisse a superare questa soglia per la prima volta nella sua storia, e proprio la spinta è arrivata ad Apple, che già nel premercato saliva del 6% e adesso sale di oltre il 4%, contribuendo al raggiungimento dei 22.000 punti con circa 60 punti in avvio. In più, appunto, come dicevi, quasi tutti i risultati delle società americane stanno andando bene, oltre il 73% ha dato utili superiori a quelle che erano le attese degli analisti, e quindi Apple ha fatto la stessa cosa ieri sera dopo le 10:30 italiane, ha pubblicato questi risultati che sono stati oltre le attese. C'era molta preoccupazione sul mercato perché si parlava dei ritardi possibili o comunque dell'andamento che non diciamo anche la concorrenza della Samsung, e quindi c'era un po' di apprensione. Invece i risultati sono stati anche in questo caso quasi strabilianti, e quindi il mercato l'ha premiata di conseguenza, proprio trascinando tutto il listino, anche se appunto la giornata oggi è abbastanza cauta perché il mese di luglio è già andato molto bene e il mese di agosto, complice anche un po' le vacanze in tutti i paesi, comunque prevale sui mercati in generale un po' di cautela, quindi c'è questo record. Però comunque adesso il Dow Jones fa un più 0,19%, quindi non è una performance particolarmente significativa. Milano scende dello 0,17% sul FTSE All-Share, dello 0,18% sul FTSE MIB, Francoforte che cede 0,5%, Londra lo 0,24%, per quanto riguarda Parigi abbiamo un calo dello 0,4%, tra i titoli migliori a Milano, anzi il titolo migliore generali, più 2,7%. Sì, generali oggi ha pubblicato i conti del primo semestre, che ha visto una crescita del 3,7% per quanto riguarda l'utile netto a 1,22 miliardi ed è un dato superiore a quelle che erano le attese degli esperti. Molti si aspettavano che rimanesse più intorno a 1,16 miliardi di euro e in più rispetto a quello che è il piano industriale della società, il taglio dei costi in generale è in anticipo di circa un anno e quindi il titolo è stato premiato. E in più diciamo si sono riaccese un po' di speculazioni su generali dopo un articolo di questa mattina in cui si parlava sul quotidiano Repubblica del fatto che ci possono essere delle novità nell'azionariato sia di generali che di Mediobanca e diciamo a partire da Unicredit, perché le tre società in qualche modo sono legate a livello azionario, perché Unicredit ha l'8,6% di Mediobanca che a sua volta ha il 13% di generali, e partendo dal fatto che Mediobanca ha annunciato che prima o poi scenderà al 10% del Leone di Trieste, in qualche modo a catena potrebbero esserci dei cambiamenti. Qualcuno ipotizzava che potrebbe Mediobanca potrebbe decidere di scendere anche sotto il 10% di generali, mentre invece iniziano un po' di ragionamenti del mercato in cui qualcuno dice no, non è possibile perché in qualche modo si andrebbe a indebolire. Prima di tutto perché Mediobanca dice, ha un buon ritorno di capitale da generali, e in più perché comunque bisogna difendere generali anche da eventuali attacchi esteri, e poi anche per una questione, qualcun analista diceva anche di status, che sì. Comunque è sempre il famoso salotto buono della finanza italiana. Bene BPM più 2,07%, Unipolsai più 1,44%, Italgas più 1,10%, bene Mediaset più 1,10%, Mediobanca più 0,97%, diciamo più o meno parte della stessa partita, Unipol più 0,97%, Poste Italiane più 0,96%, ST Microelectronics più 0,94%. Flavia, immagino che la vicenda Apple abbia un qualche ruolo, no? Sì, esattamente, STM è partito subito al rialzo da questa mattina proprio grazie ai conti di Apple, perché ST è uno dei principali fornitori del gruppo statunitense e questo, diciamo, i buoni risultati di Apple fanno pensare agli analisti che grazie a questo ST sia più facilitata a raggiungere quelli che sono i suoi target di fatturato per la fine dell'anno, quindi questi 8 miliardi che la società italo-francese si è data come obiettivo, che è un po' la parte alta del range, sia a portata di mano grazie proprio all'andamento di Apple, e in più il fatto che STM è un fornitore di Apple, ma probabilmente Apple diventerà proprio il principale cliente della società italo-francese, quindi le due società viaggiano molto legate. Atlantia su di 0,5%, oggi l'Assemblea ha dato il via libera ad un aumento di capitale di 3,8 miliardi, quello per Abertis sostanzialmente, dice Castellucci, dall'operazione con Abertis deriva per Atlantia un potenziale di crescita del dividendo per azione fino a un più 30% a partire dal primo anno, in aggiunta all'attuale politica dei dividendi. Infine ti porto su Ferrari che scende del 3,45%, ci sono i conti e poi immagino anche un po' di calo dopo la forte crescita di ieri, no? Sì, esattamente, un po' sono sicuramente realizzi, perché Ferrari intanto era un titolo che era nei primi mesi dell'anno, diciamo dall'inizio dell'anno, è uno dei titoli che aveva corso di più. Nei giorni scorsi aveva proprio toccato i suoi massimi storici e di fronte a comunque risultati buoni per il primo semestre, ma che hanno visto la società confermare i target per il 2017, mentre molti analisti si aspettavano che proprio vista l'attesa per un buon primo semestre ci sarebbe stato un innalzamento dei target per la fine dell'anno. Questa non è arrivata, la società ha confermato quelle che erano state le sue previsioni e questo ha un po' deluso il mercato, quindi unito al fatto che comunque è un titolo su cui si può realizzare molto, ha un po' penalizzato il titolo nella giornata, che appunto ha perso meno il 3,45% ed era arrivato a perdere nel durante anche oltre il 5%. Giù anche Salvatore Ferragamo del 3%, Buzzi Unicem del 2,3%, Banca Generali del 2,04%, Fiat Chrysler dell'1,66%, Leonardo dell'1,36%, Unicredit dell'1,13%, Tenaris che cede un punto percentuale, quasi un punto percentuale, CNH lo 0,92%, Recordati lo 0,89%, Luxottica lo 0,78%. Questo è il quadro di mercato di giornata e grazie a Flavia Carletti di Radio Corriere del Sole 24 ore, noi passiamo a parlare di Fincantieri. Del vertice di ieri che ha visto protagonisti il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, quello dello sviluppo economico Calenda, il ministro francese Lemaire, ieri in corso di trasmissione abbiamo riferito le anticipazioni ovviamente perché è iniziato alle 5:30, poi avete sentito anche in GR24 il racconto di quello che è seguito. In sostanza quello che abbiamo visto sono due posizioni che sono rimaste ferme da una parte e dall'altra. L'Italia che ha ribadito la sua volontà di avere Fincantieri al 51%, gli STX dei cantieri Saint-Nazaire, dall'altra parte la Francia che dice no. Non ci stiamo, facciamo 50-50, vi diamo comunque la guida della nuova società e promettiamo una maggiore integrazione sulla difesa. È ovvio che non è una partita solamente economica e questo è palese, lo abbiamo detto fin dall'inizio, è anche una partita politica, è anche una partita non solo di politica europea, come spesso abbiamo detto in questi giorni, ma anche una partita di politica interna. Facciamo una cosa, iniziamo a sentire proprio il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che oggi ha riferito in Parlamento su questi temi. Sentiamo. Abbiamo dunque convenuto che la questione della composizione del capitale di STX France sarà affrontato nel corso del vertice bilaterale franco-italiano del prossimo 27 settembre. Nella dichiarazione finale che ha seguito l'incontro è chiaramente indicato che la quota di Fincantieri in STX France dovrà rispettare il suo ruolo industriale di leadership e ciò per noi vuol dire la maggioranza e nulla di meno. Da qui al vertice del 27 settembre il governo francese si è impegnato a non aprire il capitale di STX France ad altri soggetti e a considerare Fincantieri l'opzione preferita per il futuro della società. Questo è senz'altro un impegno positivo. Il governo manterrà, durante questo periodo di ulteriore negoziato, la linea di fermezza che ha sin qui seguito, tenendo però sempre aperto un canale di dialogo costruttivo con il governo francese. Riteniamo che esistano tutte le condizioni per trovare un accordo su STX e andare avanti sul progetto di partnership tra Fincantieri e Naval Group. Ma una cosa è difendere con fermezza l'interesse e la dignità nazionale. Altra cosa è minacciare chiusure o nazionalizzazioni e ritorsioni basate sulla nazionalità dell'investitore. Sarà pure come dice Calenda, un conto è tenere la linea della fermezza, un conto è immaginare ritorsioni. Certo, però l'idea che si torni a parlare del Golden Power così nitidamente, ossia questa possibilità da parte dell'esecutivo di intervenire sulle aziende ritenute strategiche, come nel caso di Telecom Italia, la cui maggioranza relativa è francese, beh, qualcosa dà da pensare, insomma. Carlo Marroni del Sole 24 Ore, ciao Carlo, eccoci. Ciao Simone. Allora, ti chiederei solo un attimo di attesa, se no mandiamo il traffico troppo tardi e poi arriviamo da te. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci dunque, eccoci di nuovo a parlare di Fincantieri con Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Carlo, allora io innanzitutto ti chiederei quali sono, oggi firmi un commento sul Sole 24 Ore, su questo abbastanza chiaro, nel quale dici che ci sono fondamentalmente due snodi politici. Uno è quello delle elezioni tedesche, e va bene. Dall'altra parte c'è quello delle elezioni francesi per il Senato, no? Sì, ci sono queste due cose. Allora, il Senato è meno importante che da noi, però è comunque un'elezione. E elezioni tedesche, perché ormai tutto è legato alle elezioni tedesche in Europa. E siccome questa è una partita che è bilaterale, oggettivamente, su una questione specifica, però si gioca su un terreno molto più ampio, dove la Germania è fondamentale, parliamo dell'immigrazione per esempio, e quindi diciamo così, perché insomma oggi con la Francia la partita è ampia, Fincantieri è una parte del tutto, quindi diciamo fino ad allora è verosimile, come poi è stato detto, anche Calenda l'ha ripetuto, fino ad allora più o meno tutto è congelato, non che le elezioni francesi cambino chissà che, però è verosimile che da qui ad allora il quadro politico tra Italia e Francia si potrà chiarire su tutti gli altri punti. C'è l'immigrazione e la stabilizzazione della Libia, l'intervento dell'Italia a sud della Libia, nel Niger, tutte questioni complicatissime di politica e geopolitica che si intrecciano con la vicenda Fincantieri. E poi la vicenda Fincantieri in quanto tale, STX, è soprattutto legata al fatto che Macron l'aveva citata ampiamente nella campagna elettorale. Quindi diciamo così, non si poteva non arrivare ad oggi a questa situazione. L'Italia è parte lesa, sì. Chiede ragioni del 51%, verosimilmente si arriverà ad oggi, quello che poi è stato detto ieri sera, a un accordo più sul militare che non sul civile, diciamo così, perché là si intrecciano anche le questioni. Perdonami Carlo, che forse strategicamente potrebbe essere anche più interessante, in vista, ne ha parlato anche il ministro Pinotti nei giorni scorsi, in vista dell'ipotesi di difesa europea, per quanto non vicinissima. Sì, assolutamente, assolutamente. E poi il business è molto ampio, stiamo parlando di 700 miliardi, cioè cifre, insomma, le cifre sono varie. I francesi hanno interesse che non circolino il know-how diciamo europeo, in questo caso i Fincantieri, verso altri paesi. Pensiamo alla Cina, con cui ha stretto un accordo, quindi c'è una questione ampia. La questione è anche però del governo Macron, dove ci sono delle forze interne economiche, lì la politica e l'economia sono strettamente collegate, lì il conflitto di interessi spesso è un valore se difende l'interesse nazionale, ed è sentito molto più che da noi questo, e ci sono le questioni delle committenze, cioè i grandi acquirenti di queste grandi navi che si sono, diciamo, spartiti il mercato, ora per non entrare nel dettaglio, ma comunque sia, questa è una questione importante, perché stiamo parlando di maxi appalti e di decine di migliaia di posti di lavoro. Su questo il governo francese ha voluto mettere un punto e noi italiani ci sentiamo parte lesa, giustamente. Prima di allora difficilmente ci sarà un chiarimento. Io direi però che c'è un passaggio intermedio da ora al 27 settembre, che sarà il 28 agosto, quando ci sarà un vertice a Parigi, Macron, Merkel, Gentiloni e Rajoy, sull'immigrazione e sulla Libia. In quel momento probabilmente, diciamo così, alcuni nodi verranno al pettine o si potranno sciogliere, allora a quel punto forse la strada dell'accordo su Fincantieri potrebbe essere più agevole, ma potrebbe, perché non sappiamo cosa accadrà da ora ad allora sul fronte Libia ed immigrazione, e quella è la vera partita più che Fincantieri, diciamo, secondo me, perché poi è quella più grave, quella più urgente, e quest'altra è più simbolica anche se importante. Carlo, la tua impressione è che le notizie che sono circolate oggi, che hanno riguardato la possibilità di un'istruttoria sull'esercizio del Golden Power su Team, su Telecom Italia Mobile, sia collegato alla vicenda Fincantieri oppure no? Perché, come abbiamo sentito dalla voce di Calenda, Calenda sembra escluderlo esplicitamente, un qualsiasi tipo di ritorsione. Però sappiamo che la partita è sempre con i francesi, con Vivendi nella fattispecie, quindi insomma il sospetto viene all'indomani di questo incontro. Beh, insomma, l'ha detto abbastanza, diciamo, lui ha citato il fatto della Golden Power, che appunto sarebbe un esercizio, sarebbe la prima volta che viene fatto in questo quadro, diciamo così, delle privatizzazioni, cioè dal 94 ad oggi la Golden Share è stata utilizzata praticamente mai, se non in questi quadri, in un quadro difensivo, diciamo, ma è stata utilizzata in altre circostanze. Il Calenda diceva, tra l'Italia e la Francia c'è un tale scambio commerciale, di cui noi siamo in attivo, diceva, che pensare a qualsiasi ritorsione di carattere commerciale sarebbe impensabile, ma l'ha buttata là, ovviamente, l'ha buttata là, no, e sì, però va detto anche che secondo me c'è tattica, sì. perché lo dice un ministro che non ha questi poteri, lo ha il governo e segnatamente e poi il ministro dell'economia, certo. Lo dice un ministro che non ha nessun potere, con rispetto parlando, diciamo. Sì, quindi, sì, no, su questo, diciamo, aspetto, questo specifico avanti, aspetto. Un po' così, è stato mandato avanti un po' così, secondo me in maniera molto tattica. Poi ha detto che in tutto il governo è Calenda è quello che sta alzando più di tutti i toni, forse anche per motivi politici suoi, ma questa è la mia impressione, diciamo. Grazie a Carlo Marroni. Tra l'altro, a proposito di Fincantieri, oggi il Qatar ha comprato dall'Italia, l'annuncio è arrivato, 7 navi da guerra per un contratto da 5 miliardi di euro, ed è proprio del Qatar che parliamo adesso. Paese isolato sostanzialmente da molti altri paesi arabo-sunniti, perché è accusato di alimentare il terrorismo, e che però innanzitutto fa un contratto a 5 miliardi di euro con Fincantieri e poi dall'altra parte mette in campo un'acquisizione di un giocatore, di calcio pazzesca. Neymar, che passa dal Barcellona al Paris Saint-Germain per un'acquisizione che vale complessivamente 600, l'acquisizione nel complesso vale 600 milioni di euro, l'operazione vale 600 milioni di euro, e il Paris Saint-Germain è del Qatar. Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore, ciao. Eccomi, ciao, ecco. buon pomeriggio. Che cosa vuol dire questa, che cosa rappresenta questa operazione? Beh, innanzitutto per il calcio rappresenta il passaggio, diciamo, da un'era all'altra, in cui sostanzialmente lo calcio esce fuori come strumento politico di soft power, perché effettivamente il Qatar ha utilizzato questa operazione per uscire dall'isolamento in cui si è trovato, geopolitico, e userà Neymar come testimonial dei mondiali di calcio del 2022, altra grande operazione contestatissima, ma che rappresenterà appunto la prima Coppa del Mondo ispirata da un paese islamico. E l'operazione Neymar nasce in qualche modo anche da un anticipo di questo isolamento poi diplomatico che il 5 giugno scorso ha visto Arabia Saudita farsi capofila dei paesi che contestano la vicinanza di Doha a frange dell'islamismo radicale. Qualche mese prima l'aveva fatto proprio il Barcellona, perché il Barcellona aveva come sponsor Qatar Airways, ma dopo gli attentati di Parigi la dirigenza catalana ha deciso di lasciare questo sponsor proprio perché ritenuto troppo vicino alle frange radicali dell'Islam, è passato ai giapponesi di Rakuten, e l'emiro Altani, diciamo, se l'è legata al dito. E in queste ore assistiamo al colpo di calcio mercato del secolo, ma che appunto di calcistico e di sportivo ha ben poco. In 10 secondi, Marco, a questo punto dobbiamo aspettarci altre cose di questo genere, magari non dal Qatar, però diciamo i prossimi anni da questo punto di vista, cioè se dici con punto di svolta, probabilmente qualcosa di questo genere è destinato ad avvenire ancora. Beh, è avvenuto in questi mesi, pensiamo alla Cina, pensiamo a Milano, alle squadre di Milano, e avverrà ancora di più perché Russia e Stati Uniti e gli altri grandi padroni del calcio, insomma, non staranno certamente a guardare. Vedremo come reagirà l'Italia, come reagirà la vecchia Europa rispetto a questo assedio, insomma, che è finanziario, geopolitico, industriale, insomma, per difendere poi i veri valori del calcio. Sì. Se di sportivo, di puro, c'è rimasto ancora qualcosa. Allora, grazie dunque a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, autore tra l'altro dei Veri Padroni del Calcio, edito da Feltrinelli. Grazie a Mauro Del Corno in assistenza e redazione, a Pietro Lacorte in regia, a tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia, ci si risente domani dopo il GR delle 17. Radio 24, libera la voglia di fare.